Letture di Radio 24. La liberazione del terrorista pluriomicida Cesare Battisti da parte delle autorità brasiliane si fonda su un'idea di non colpevolezza giustificata dal clima di guerra civile che c'era in Italia negli anni 70. Ma basta ripercorrere la carriera criminale di Battisti per capire che una simile sentenza offende la memoria di quegli uomini che, pagando con la propria vita, hanno impedito che questa guerra civile avvenisse. Nella complessità della vicenda, più che con il provvedimento di scarcerazione emesso dal Supremo Tribunale Federale del Brasile o con il diniego dell'estradizione adottato alcuni mesi addietro dall'allora presidente Lula, confrontiamoci con la sostanza. Ha prevalso nelle autorità di un paese non ostile al nostro la linea secondo la quale le responsabilità di Cesare Battisti per i reati commessi in Italia negli anni 70 come esponente del gruppo Proletari Armati per il Comunismo non devono sfociare nell'espiazione della pena. Poco importa che a questa conclusione le autorità brasiliane siano giunte assecondando maggiormente il pensiero secondo il quale negli anni 70 in Italia c'è stata una sorta di guerra civile o quello secondo cui i processi a Battisti si sono realizzati non nel rispetto dei principi di diritto. Poco conta perché entrambi i pensieri non corrispondono a realtà e sono offensivi sia della memoria di chi in quegli anni ha impedito proprio quelle dinamiche da guerra civile che rivoluzionari ed eversori, rossi e neri, volevano innescare, sia di un paese che molto più di altri, attraverso il diritto, ha superato gli anni di piombo. Volgiamo lo sguardo indietro. Torino, 1976. Processo ai capi storici delle BR. Per impedire la celebrazione del dibattimento, gli imputati e i loro sodali avevano capito che non sarebbe bastato minacciare i giudici popolari a che non si formasse la corte d'assise. Per sfuggire al giudizio, per impedire l'affermazione del diritto, bisognava fare di più. Così i terroristi identificarono nel rifiuto della piena difesa lo strumento per paralizzare il processo, perché senza la difesa il diritto non può affermarsi. Revocati i propri avvocati di fiducia, gli imputati iniziarono a minacciare di morte quelli nominati d'ufficio. Qualora i difensori accettassero la nomina, saranno ritenuti come collaborazionisti del regime, con le conseguenze che ne potranno derivare. La minaccia ebbe efficacia e molti avvocati si lasciarono sopraffare dalla paura, ma non tutti. Dopo mesi, garantita la difesa dei diritti degli imputati attraverso la nomina di diversi difensori d'ufficio, tra i quali anche l'avvocato Fulvio Croce, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, il processo ebbe inizio. Ma nel disperato e vano tentativo di riuscire a impedire il dibattimento, affermando il terrore, i brigatisti alla minaccia diedero seguito e il 28 aprile del 1977 l'avvocato Fulvio Croce venne ucciso fuori dal suo studio con 5 colpi di pistola per avere genuinamente svolto il proprio ruolo di difensore. Pensiamo a Fulvio Croce e agli avvocati che con e come lui, anche dopo di lui, hanno voluto tutelare nei processi i diritti anche di chi li minacciava di morte. Alla libertà e responsabilità che essi hanno dimostrato. Pensiamo ai tanti magistrati, uomini delle forze dell'ordine e delle istituzioni, giornalisti, sindacalisti, professionisti, operai, che in quegli anni sono stati eletti a nemici dai terroristi perché vivevano il proprio ruolo, quale che esso fosse, secondo l'originaria purezza dello stesso, senza cedere alla violenza e al contempo consentendo che il paese offrisse quanti meno alibi possibili a quei fanatici che proponevano la violenza come soluzione. Vittime, nel senso etimologico del termine, oggetto di sacrificio, ancora oggi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Umberto Ambrosoli, Offesa alla memoria di chi morì sfidando la paura, dal Corriere della Sera del 10 giugno. Letture di Radio 24. Abitare a Malocchio porta sfortuna? E come vengono trattati i turisti a Malalbergo? L'Italia è piena di paesi dai nomi curiosi e ora un libro cerca di spiegarne le origini. Ha ragione il monaco Georges Daborges, signore dello scriptorium nel pluripremiato Il nome della rosa. Le cose ci sfuggono. Nomina nuda tenemos. E va anche bene quando abbiamo a che fare con una rosa, ma quando viviamo a Sfruz, a Zumzeri o a Sferracavallo, Così, a parte consultare l'ineguagliabile dizionario di toponomastica pubblicato da UTET, molti abitanti degli 8.094 comuni e delle 60.271 località e frazioni si interrogano sui remoti perché della loro denominazione. I sospirolesi, per esempio, non ne possono più delle battute sui sospiri. Vivono a Sospirolo, Belluno. Chi ha deciso che un posto si sarebbe dovuto chiamare per sempre Cocomaro di Focomorto? O nucleo case sparse? E una volta conosciute le regioni, che fare? Marino Montano, è uno pseudonimo ovviamente, ha compilato una guida ai nomi strambi ma veri, suggerendo spiegazioni in qualche caso crudeli, in qualche altro consolatorie. La sua idea di scherzarci su almeno spinge la gente a interrogarsi sul passato. E poi, ammettiamolo, certi nomi sembrano fatti apposta per provocare traumi e desideri di rivoluzioni linguistiche. Castelletto Scazzoso si è trasformato in Castelletto Monferrato, Cazzimani in Borgo San Giovanni, e si capisce perché. Belfiore si è chiamata Porcile fino al 1547 e Belfiore di Porcile fino al 1967. Melma è diventato Silea dal 1934. Nella richiesta di cambio di denominazione, il podestà Matteo Frantin spiega al re che tale nome è divenuto antipatico agli abitanti perché si presta allo scherno. Ma la maggioranza si tiene il nome avuto in sorte, come si accetta un parente con una rotella fuori posto, anche quando si presta all'equivoco. Vedi Spinello, Tre Canne, Fumo e Rollo, oppure Acqua Pagana, Purgatorio e Altolà. Magari quelli di buon abitacolo, dall'unione di buono e abitacolo che definisce la condizione salubre del luogo in epoca romana, sono più contenti di quelli di Scalzavacca, Gargazzone e Capron, ma non è detto. A frugare negli archivi si scoprono dettagli insospettabili, leggende, dispute. Incudine, che sembra facile facile, potrebbe non avere alcuna relazione con i Fabri e derivare da Ancusa, una pianta erbacea. Porto Cannone, l'antica Porto Candesium, racconta una storia di terremoti e ricostruzioni, del condottiero Arberesce, della minoranza albanese che ancora resiste e le cannonate non c'entrano. Lingua Glossa, che alle origini era Lingua Grossa, paesino siciliano arrampicato sull'Etna, tra i castagneti e la pietra nera del vulcano, ha addirittura una quantità di storici che discutono ferocemente sull'etimologia. La lingua era di lava? Era duro il linguaggio degli abitanti? Il paese era forma di lingua? Va chiarito che nessuno se lo chiede più. Su Arbatax, che è inserito in una lista di nomi quasi alieni, Xirbi, Noax, Amblar, Radon, Somor, perfetti per il monologo finale di Blade Runner, e ci stanno anche bene, si potrebbe scrivere un romanzo. Deriverebbe dall'arabo Arbaatash, 14, e potrebbe indicare la 14ª torre di avvistamento, simile ad altre, costruite sulle coste sarde. Peccato che gli arabi abbiano avuto poco tempo per influenzare la toponomastica. Messa da parte la filologia, è più divertente pensare che Rivoltella sia la capitale della roulette russa e Capitan Loreto un supereroe. Infine, con un pizzico di follia, ecco un elenco dei nuovi sette nani. Odolo, Primolo, Rigolo, Roncolo, Rugolo, Teolo, Sorbolo. E risparmiamoci Staffolo, il nano fantino. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roselina Salemi, Che effetto fa vivere a Zumzeri, dalla Stampa del 31 maggio.